Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, brucellando Maridia ai microfoni, auguro a tutti voi un'ottima serata in nostra compagnia. Saluto anche Dani M alla regia. Saluto tutti voi, tutti gli ascoltatori, perché questa sera ascolterete un'intervista diversa da quelle che ho svolto in questa lunga carriera ormai radiofonica. Come sapete, il viaggio di Brucellando ha toccato tante sponde, ha attraversato tanti incroci, ha avuto il piacere di discorrere, di confrontarsi con personalità veramente provenienti da ogni ambiente culturale, dai pittori agli scrittori che poi sono stati i primi a credere in questo progetto, agli attori, e chi mai l'avrebbe immaginato, ai cantanti, e tanti hanno accettato di farsi intervistare da questa nostra piccola realtà radiofonica. Eppure vi confesso che l'intervista che ascolterete mi ha lasciato una profonda emozione. Non fosse altro perché racconta una storia, come tante, ed è una storia che ci accomuna, almeno in quella volontà di voler migliorare, di voler progredire, di voler fare qualcosa che possa anche aiutarci nella quotidianità, a superare soprattutto il grigio di questi cieli brussellesi. Racconta la storia di tanti italiani che per strade diverse hanno lasciato la propria terra inseguendo un sogno. Noi siamo a Bruxelles, tanti di noi hanno avuto la possibilità di poter abbracciare quel sogno e di viverlo quotidiano. Bruxelles però è anche la capitale amministrativa dell'Europa e quella città tanto contestata, anche minacciata, che si occupa di politica, si occupa di decidere. Probabilmente non si decide proprio tutto qui, come qualcuno vorrebbe farci credere, però è qui, tutto sommato, che hanno sede le istituzioni europee. È un argomento che, come sapete, tratto molto raramente, perché è un argomento che va affrontato con la giusta prospettiva, perché è poi facile magari cedere alla tentazione, alla critica, quando sappiamo molto bene che il processo democratico e quindi decisionale è qualcosa di complesso, macchinoso, che necessita tempo, pazienza e tante persone che credono nel proprio rispettivo lavoro. Qualche giorno fa, attraverso la mia amica Daniela Cassata e il suo compagno Ivo Tampieri, che saluto, ho avuto la possibilità di conoscere la signora Giulia Poto, di 96 anni, di origine brindisina. Non anticipo nulla rispetto alla sua intervista perché sarà lei stessa a raccontarvi la sua storia. Una storia fatta di intelligenza, e capirete perché, di passione per la sua terra, ma anche per la realizzazione del progetto europeo. È la prima persona che ho intervistato che si può annoverare tra le madri fondatrici, perché sapete, è facile, dei padri non ci si dimentica mai, si porta il cognome, così come lo sono le istituzioni europee, però di queste madri silenziose, di quelle che lavorano all'interno delle istituzioni, se ne ricordano pochi, in pochi, perché probabilmente è giusto che sia così. Però a me fa piacere riportare all'attenzione degli ascoltatori di Radio Alma e di Brucellando questa storia vera che ci racconta per l'appunto come l'Europa dei sei sia poi passata a più velocità, a più stati membri, abbia addirittura raggiunto oggi il numero di 28 stati membri. E a noi oggi cose che sembrano scontate, come la nomenclatura, la standardizzazione, la possibilità, in una sola parola, di poter comparare le realtà tra uno stato all'altro, sembrano scontate. E invece, pensate, c'è chi prima di noi ha dovuto interrogarsi e attribuire un nome che potesse essere comprensibile a tutti, affinché ci fosse per l'appunto questo senso di unità, oggi chiamato mercato interno, ancora meglio digital single market, questo mercato unico digitale. Ed è verso questo cui tendiamo. Ma prima di arrivare a questa tappa, ci sono tante tappe precedenti che partono dalle radici, quelle più profonde della terra, che ci appartengono a tutti, anche se oggi magari parlando di agricoltura si può sorridere o magari considerarla un'arte minore, quando invece è attraverso per l'appunto quelle radici, quella terra, che continuiamo ancora ad alimentarci. Anche se negli Stati Uniti fanno cose un po' diverse, ma questa è ancora un'altra realtà. Mi fermo qui. Vi prego soprattutto di considerare che questa intervista è stata rilasciata liberamente. Volontariamente abbiamo deciso di non intervenire. Potrete a volte ascoltare un'interruzione oppure la voce della mia amica Daniela che era con me mentre raccoglievamo questa intervista, ma affrontatela soprattutto, ascoltatela veramente in retrospettiva. Immaginatevi l'Europa del 1960 e l'Europa del, l'Europa del 2015, l'Europa del 1984, che è l'Europa in cui ha vissuto e lavorato attivamente la signora Giulia Poto. E ringrazio ovviamente la famiglia per avermi dato questa possibilità, perché credo che questi esempi, in un mondo così tormentato da false ideologie, che ci sia bisogno anche di riscoprire le nostre origini culturali e, perché no, anche istituzionali, come il caso nostro. Quindi Bruxellando, che deve il nome anche alla città che la ospita, rende omaggio questa sera a Giulia Poto. Restate con noi, Radio Alma, martedì, Bruxellando. Io mi chiamo Marilena. Allora, io avevo preso il diploma di ragioniera nel 1939, diploma di ragioniera, 19 anni. Dopo si cerca lavoro, ma a quell'epoca la donna non andava nei siti alti per trovare lavoro. Mussolini aveva messo l'avviamento al lavoro, che erano delle scuole dove solo le donne potevano andare col camice bianco. E infatti le mie sorelle più grandi, Carolina, che ha sposato poi un ingegnere a Brindisi, e Leonora, che mio padre la voleva fare iscrivere all'Orientale di Napoli come lingua, ma lei non volle, hanno fatto quelle scuole. Per entrare in questa scuola di ginnasio-liceo a quell'epoca bisognava presentare un programma con 10 riassunti e 10 poesie. Ma mio padre aveva 8 figli a scuola, non poteva spendere 8 professori per mandarci a questo ginnasio liceo, che poi è diventato il liceo classico. No. Allora, cosa successe? Io, spinta dalle mie sempre iniziative, anche quell'epoca, ricordo, feci io il programma, senza andare dal professore, ed eravamo 300 alunni che si presentavano a quell'epoca, tante amiche mie, tutti con un foglio di carta che era scritto il professore. Io invece misi l'alunna, la candidata, Giulia Poto, fui la prima a togliere 10 riassunti e 10 riassunti e 10 poesie. Quando arrivai davanti ai professori che mi chiamarono, disse: chi è questa? Lei non è il professore. Dico: ma per fare gli esami non occorre avere il professore, bisogna essere preparati. E io mi sono preparata, avevo solamente 11 anni allora, e io mi sono preparata, e sì, perché 11 anni per essere ammessi al liceo, ginnasio, era Benedetto Marzolla, Brindisi si chiamava l'istituto, ricordo, che ancora c'è. E disse: ma lei chi è? Sono l'alunna e non ha il suo professore che l'ha preparata. Dice: A mio padre non può spendere tanti soldi per tanti figli per mandarci al liceo o al ginnasio. Mi sono preparata da sola, lo dissi, fui la prima a metterlo, con 10 riassunti e 10 poesie. Dice, mi dica questa poesia, e videro che ero preparato, specialmente in matematica. E mi disse il professore, brava, le do 10 in matematica. Ha visto, dissi io, mi ricordo bene, professore, anche senza essere preparati da un professore, si è bravi quando si studia e si ha voglia di studiare. Non è necessario un'altra persona. Il professore, mi scusi, era maschio, sì? Pardon. Quindi il professore era un uomo, non era una donna, quindi no, pure lui fu lungimirante, riconobbe. Era un professore, fui la prima a sfondare questo principio che le donne non potevano fare gara con l'uomo nello studio, no, dovevano andare all'avviamento al lavoro. Questo io le parlo del 1900, insomma io avevo 11 anni, più di questo non potevo averli perché avevo finito e avevo avuto il diploma, perché allora la quinta elementare chi era brava, io ero brava in analisi logica, mi davano un diploma e io avevo un diploma lodevole. Quindi avevo già un passo avanti. Quando vidi mio padre che io ero brava in matematica, e Maria Clara, la mamma di Carla, era amica mia, pure lei era in un'altra città, non era più a Brindisi, perché il padre era un grande medico del nonno di Carla, il più grande medico di allora, di quei tempi. Mio padre disse, figlia mia, se tu sei brava in matematica, aspetta un poco che apriranno a Brindisi l'istituto tecnico commerciale, orientamento mercantile a novembre. E di lì tu sarai brava, perché, ma io dico le cose di quell'epoca, sarai brava perché sei brava in matematica. Mio padre credeva che andando all'istituto tecnico commerciale che stavano per aprirli, si potesse andare poi all'università matematica. Mm-hmm. Invece no, non si poteva andare. E questo quando l'ha scoperto poi che non sarebbe? Allora, perché l'hanno, come dico, ecco, questa è una domanda interessante. Perché quando io cominciai poi a frequentare aspettai novembre per iscrivermi, ed ero unica donna e 30 uomini, 30 ragazzi allora. Io ero sola donna, ma perché la donna non era considerata come gli altri, cioè come oggi. La donna doveva fare solamente, ma sono stata la prima ad iscrivermi a economia e commercio, io anche a 18 anni. Ma dopo gli esami... E dove frequentò l'università? In Puglia? O... Pardon? Dove frequentò l'università? In Puglia? Sempre in Puglia? A Brindisi? A Bari. No, poi dopo, le dico subito. Quando io sono entrata all'Istituto Tecnico Commerciale che era stato inaugurato, ho incominciato a studiare le materie che di matematica, di storia. Ma quando era l'epoca dell'università, dall'istituto tecnico commerciale non si poteva dire alla facoltà di matematica. Questo lo, insomma, la cosa che più mi spaventì. Ma c'era la professoressa di matematica. Noi studiavamo a quell'epoca la matematica finanziaria, molto difficile. E questa povera professoressa di Napoli, mi ricordo, veniva da me per studiare insieme la matematica e poi lei dava la lezione. Eravamo a questo punto, penso. La donna era niente allora in confronto dell'uomo. Poi scoppiò la guerra dopo il diploma di ragioniera, cioè nel 39, Hitler, la guerra, e poi Mussolini. Eravamo molto bambini. Mio padre, quando era l'allarme, i bombardamenti di quelli che andavano contro Mussolini a quell'epoca, perché noi dopo i bombardamenti mio padre ci portò in un paese vicino Brindisi, dove dormivamo per terra nelle chiese, e perché c'erano i bombardamenti per non farci prendere dalle bombe. Io a quell'epoca avevo fatto anche domanda per andare a lavorare alla Camera di Commercio. No, non si chiamava Camera di Commercio, si chiamava Consiglio Provinciale delle Corporazioni. Se lei legge nei libri, Consiglio Provinciale delle Corporazioni. Le Camere di Commercio non esistevano, cioè esistevano molto tempo prima, poi Mussolini le tolse e mise con tutto il sistema corporativistico, cioè io andai subito, appena diplomata nel 39, andai subito dal prefetto presidente di questo consiglio provinciale di corporazione, che accanto c'era l'ufficio provinciale delle corporazioni, e a questo ufficio poi aderì il re quando scappò dall'Italia a Pescara, e venne a Brindisi, e il Ministero delle Finanze allora era nella stanza con me, dove io già lavoravo come ragioniera capo, perché il ragioniere capo nel 40 era partito per la guerra in Grecia. Non so se le date sono giuste, esatto. Grosso modo ci troviamo, sì. Perché ho 66 anni, 96 anni, quindi lei tiene presente questa situazione prima di giudicare quello che dico. Non si preoccupi. A questo punto io ero ragioniera capo, subito mi fece allora il prefetto presidente del Consiglio Provinciale delle Corporazioni. Quando sono stati 100 anni dell'Italia, del Regno della Costituzione italiana, 100 anni, cioè nel 61 circa, ci furono tutti i censimenti da fare. Censimento, lei mi insegna che non è un'indagine, ma prende tutto il campo d'osservazione. Certo. E io ero la capo, forse unica donna dell'Italia per provincia, della provincia di Brindisi, essendo capo ragioniera e capo ufficio di statistica. E in questo frattempo si dovevano creare le norme, perché non esisteva un censimento agricolo, non si era mai fatto in Italia censimento dell'agricoltura, e dovremmo affrontare la situazione di creare tutte le definizioni molto difficili per rapporto poi agli altri cinque paesi, perché quando è nata l'Europa è nata con sei paesi e non c'era niente. Quando io venni qui poi a Bruxelles, dopo i censimenti del centenario, mi prese il governo italiano, perché non c'era lo statuto per fare i concorsi, ma che cosa c'era? C'era che ogni governo, secondo la propria popolazione, doveva far venire un numero di funzionari preparati nella materia da svolgere come primo fatto da eseguire a livello europeo. E mi manda, ecco come io venni a Bruxelles, perché avevo fatto il censimento dell'agricoltura, dell'industria, commercio e della popolazione. La popolazione, lei sa che si fanno quello, la popolazione presente e quella che si trova al momento del giorno della, è residente, sono due cose di molto differenti, la residenza dalla presenza. Io posso essere presente a Lussemburgo, a Bruxelles, sono, ma rimango italiana come residenza a Brindisi, sono io dopo 60 anni. A questo punto il governo italiano disse: mandiamo la persona esperta che ha fatto i censimenti del centenario, e mi mandarono a Bruxelles per incominciare a fare le strutture, tutte le definizioni e omogenee di tutti e sei paesi. Ma cosa fu la situazione più tormentosa? Che l'Italia, allora, il sarto era chiamato exploitant, cioè conduttore, olio, perché facevano la confusione fra i modi di fair valoir, cioè quello, l'affitto che oggi, affitto e proprietà, sono solo due del, come modi di fair valoir. Ma noi allora in Italia c'era la mezzadria, la colonia parziaria impropria, era una cosa tutta diversa, tutta sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista economico. Dal punto di vista economico, perché c'erano le culture promiscue, le culture promiscue che sono stata io personalmente a variarle come prorata. Cioè, cosa vuol dire cultura promiscua? Gli agrumi insieme all'oliveto, ma era affibbiata tutta la terra utilizzata come economia alla cultura che aveva un valore prominente. Quindi, e a un certo momento vidi che E poi ci fu la tipologia, prorata, tutte queste cose vengono dopo. Vidi che un paese della Puglia, perché ero andata anche in Svizzera nel frattempo, al Bureau Internazionale du Travail, per prendere, tu c'è la tesi di laurea a casa, tutti i dati raccolti a livello Brindisi, Puglia, la regione e Italia, e poi l'Italia paragonata agli altri paesi, forse è troppo per loro. No, posso continuare? Sì, per me non c'è problema, sì, assolutamente. Vidi che un paese che era il più grande produttore di olio d'oliva, Bitonto si chiamava, non aveva olio d'oliva, perché la definizione dell'Istituto Centrale Statistica, secondo questa definizione, bisognava appropriare, dare alla cultura che aveva un valore maggiore. Allora, se l'oliveto, che nel frattempo era stato fatto il catasto del vino, mentre io lavoravo per l'olivo, si era fatto per il catasto, a un certo momento spariva l'olio e questo paese diventava produttore magari di agrumi, ma quando gli agrumi c'erano, ma c'era l'olio che era quello che dava l'indirizzo all'azienda agraria. Quindi ci fu da rimettere e vedemmo che le culture promiscue dovevano essere modificate. In effetti ho avuto la gioia, prima di andare via, che il prorata, cioè se una cultura agrumi è insieme con l'oliveto negli ali, mischiata, promiscua, mélangée insieme, bisogna separarli e dare all'oliveto la sua porzione. Questo non c'era allora. Quindi già l'indirizzo dell'agricoltura non era giusto, quello dell'esploitant non era giusto, perché il sarto poteva avere la terra e condurla lui stesso. Quindi il primo grande lavoro che io ho fatto insieme al professor Fois di Sassari, lui dal punto di vista giuridico mi dava gli elementi, e fu questo, cioè la cultura promiscua doveva essere divisa. Quando sono entrati gli altri paesi, abbiamo tenuto presente già questo. Invece, per la prima volta i sei paesi, io mi trovai sconcertata di fronte al Belgio, alla Francia, perché loro non avevano culture promiscue, avevano l'orientamento veramente giusto, cioè tutto olio, ma certe volte avevano pure promiscuo, cioè l'azienda orientata verso gli agrumi, perché era considerata nel promiscuo la cultura più importante. Era un principio falso. Quindi mettemmo a posto i modi di far valuare, affitto divenne, sparì mezza dria, colonia persiaria impropria, tutti questi modi che c'erano allora in Italia, non, sparirono completamente. E ci fu la grande rivoluzione che anche l'Italia accettò, perché l'Italia quando entrò con le strutture un poco, insomma, diverse dagli altri paesi, molto diverse, con queste forme di colonia parziale impropria, colonia parziale. Era una cosa terribile metterla in confronto, addizionare un'azienda in affitto con un'azienda a mezzadria. Ma non si poteva, la prima osservazione mia fu questa, che bisognava fare tutto da capo. E facemmo questa rivoluzione nel modo di far valuare, che era la più importante, cioè affitto e proprietà, che esiste ancora oggi, penso. Lei c'ha tutta la collezione dell'azienda pilota che abbiamo fatto uscire poi dopo, no? Però posso provare ad informarmi. Cioè, sono quelli li ho fatti tutti io, alla macchina con a Lussemburgo. Là, quello che mi ha fatto lei osservare è giusto, le tre commissioni furono dopo che era stata costituita tutto questo imbroglio di agricoltura un po' assestato. Io avevo allora già, avevo lavorato 4 anni circa, ci fu la CECA, l'Euratom e la Commissione che dovevano riunirsi, fare una sola commissione come oggi. E lì il problema scoppiò completamente, nel senso che ci fu una riunione, ma Lussemburgo mise il veto, penso. Io adesso non mi ricordo. Mise il veto, ma un veto che non valeva niente per me, perché lo fece dal punto di vista che perdeva i funzionari. Tutti i funzionari della CECA che stavano a Lussemburgo o quegli altri Euratom che stavano pure a Lussemburgo dovevano venire a Bruxelles insieme alla CE e fare un'unica commissione. Allora si pose il problema, chi andrà dei funzionari che stanno a Bruxelles? Chi andrà a Lussemburgo? E fu l'istituto statistico dove già io lavoravo, come gli ho detto, dopo i censimenti del centenario che mi chiamò il governo italiano a Bruxelles. E in questo momento noi andammo a Lussemburgo, ma a Lussemburgo dovevamo fare un grande lavoro, che sono, non so, 50 libri fatti da me, che sono a casa in libreria, qualcuno, non tutti. Un'indagine pilota si chiamavano allora, per vedere quante aziende erano in proprietà, in proprietà cosa voleva dire, in modo che esploatà e proprietario coincidevano, invece di affitto non era dal punto di vista giuridico, cioè in affitto una persona poteva avere da un'altra persona l'azienda senza essere proprietario, quindi c'era la situazione giuridica economica da valutare anche a quell'epoca. C'era la FAO allora, La FAO, che aveva fatto il più grande censimento mondiale, la FAO riempiva tutto. E io quando andavo in riunione andavo solamente quando discutevano problemi che erano della... problemi solamente dell'agricoltura, perché dovevamo fare questa indagine pilota. E lì trovano la base. Se il nome ce l'avranno in biblioteca, sono a livello di tutte le... cioè provincia, incomincia con la provincia, poi regione e poi paese, allora si chiamavano, cioè paese a livello Italia, Belgio, Lussemburgo, i sei paesi membri, e facemmo questa indagine. Loro sanno che prima di fare un'indagine che copra tutto il campione c'è si fa un'indagine pilota di 1000 aziende per vedere se va bene il censimento. Io andai in Sicilia, a quell'epoca ricordo, gentilissimi, tutti erano pro Europa, tutti erano per l'Europa, si lottava allora per l'Europa. E facevamo questa indagine pilota su un questionario. Pardon. Sa, madame. Bene, bene. No. E facemmo questa indagine pilota di 1000 aziende. La stratificazione, loro sanno che cos'è. Come dovevamo farla? Io lavoravo col ministro francese Fouas, mi sembra che si chiamasse, non mi ricordo il nome. Molto bravo questo ministro, e lui mi dava tutte le notizie della Francia, che era il paese più importante. Perché cosa successe in questo periodo? La cosa più forte: siccome c'era la superficie agricola utilizzata, SAU, superficie agricola utilizzata solamente. Devo coordinare le due cose. Questo è in Italia o in Francia? No, devo... Loro, in questo periodo, nelle aziende pilota dove io ero, fui mandata in Sicilia, perché la Sicilia era quella un pochino più diversa. Poi c'era la Calabria, ma che io conoscevo molto bene, la Calabria, perché mia madre era al confine con la Nova Siri, al confine con la Calabria. E c'era poi un funzionario molto preparato al comune che mi aiutò per la trasformazione del latte per fare le mucche carne o le mucche latte. Allora in questo periodo tanti problemi che c'erano, a poco cercammo la base per la stratificazione, che cos'è in questo momento che si poneva, cioè il campione che si prende viene stratificato, e noi non sapevamo quale strato prendere. Alla fine mi venne in mente la come si chiamava allora stratificazione, che erano orientati verso la mi verrà mi verrà il nome. A un certo momento andammo a finire, questo me lo ricordo bene, era il 1965 forse, andammo al Sole, all'azienda Sole, dove c'era un signore tanto preparato che ci aiutò tanto, ci spiegò tutto, la canalizzazione delle, di quello che davano le mucche, ma come latte e come concime, perché voi dovete tenere presente che in Italia a quell'epoca, quando ci fu l'Europa, non usava concimi. L'Italia non ha mai usato concimi, aveva il sole, era il giardino d'Europa, la chiamavano. E come faceva a concimare la terra? Col sovescio, cioè giravano la terra, lei pratica l'agricoltura, il sovescio, cioè che giravano, e poi le mettevano le giacere, si chiamano le giacere, le mettevano a riposo. Come le mettevano a riposo? Mettendo le culture permanenti, meloni, questa roba qui, il terreno si riposava un poco, e poi riprendevano le terre arable. E ci avete presente lo schema del territorio come superficie agricola utilizzata. E incominciamo a capire tante cose dell'Europa, perché lavoravamo, non avevamo niente, niente, tutto abbiamo creato da nulla noi a quell'epoca. Però con la buona volontà, perché ci volevamo tanto bene, mi ricordo, tedeschi, francesi. Ricordo che quando stava malata una ragazza e non aveva il termosifone, un'altra che aveva il termosifone diceva vieni a casa mia, come se fosse la sorella. E io vado altrove, infatti io detti la mia casa ad una ragazza che era ammalata, la Pernigotti, quella del cioccolato, sì, sì. Che era venuta. E venne a casa mia ed io andai a casa di un'altra famiglia italiana, i Pusateri. Pusateri, che adesso una è suora a Lussemburgo e l'altra è medico che ho aiutato come spinta per l'Europa e l'altra è al Gemelli a Roma. A questo punto facemmo l'indagine pilota, ma tutto con la macchina già incominciamo. E loro sanno che dopo un'indagine o pilota o censimento eccetera, vengono fatte le correzioni. Si certo. Allora bisogna fare il programma se in effetti, per esempio per le... come si chiamano le champignon a letto, che si mettevano uno, un letto, due letti, tre letti. Questi indirizzi li ci aiutavano a trovarli e noi scrivevamo perché dovevamo fare e scrivere qualcosa a nome dell'Europa e la scrivemmo. Facemmo un'indagine pilota riuscita molto bene, cioè per esempio una correzione, tanti funghi attratti, cioè non funghi di boschi, coltivati, le coltivazioni dei funghi dovevano corrispondere a una certa somma, per dire una correzione, oppure allora a quell'epoca introducemmo noi nel questionario pure una parte che interessava al di fuori dell'agricoltura, cioè quando le vendite che facevano, mentre prima non si sapeva questo, e noi scoprimmo tante cose, cioè che l'Italia non era più il giardino dell'Europa, e fu perché questo? Perché la Germania produceva i pomodori, per esempio, non nel periodo in cui li produceva l'Italia, li produceva verso gennaio, però come li produceva? Coperta, la superficie agraria utilizzata, coperta. C'erano tante forme di copertura. E l'Italia figurò che quando produceva i suoi pomodori, giardino d'Europa aperto, senza copertura, che la Germania non comprava più i nostri pomodori, perché era satura, aveva già comprato quelli con la superficie coperta. E l'Italia aveva uno scacco matto di questo. E allora si incominciò a pensare, l'Italia aveva, giardino d'Europa, aveva la superficie agricola col suo sole coperta, perché doveva produrre i pomodori e fare la concorrenza alla Germania. E l'Italia copriva, io ricordo le cose più salienti, diciamo, che mi colpivano. Certo. E l'Italia fu costretta a avere il territorio di superficie agricola utilizzata più coperta, più vasto di tutti gli altri paesi. Da giardino dell'Europa, l'Italia, ci sono i libri miei nella libreria, ma non so dove sono. Cioè l'Italia, da giardino dell'Europa, che produceva i pomodori in pieno campo, aperto, dovette produrre i pomodori, io dico i pomodori come cultura, è molto importante, come cultura coperta per sottostare alla concorrenza della Germania. E questo fu per me il primo shock che produceva, bisognava subire tutte queste cose all'epoca. E così mettemmo a posto l'Italia da paese che aveva mezzadria colonia, anche lei ebbe affitto e proprietà, penso che siano ancora quello mio. E quanti anni ha lavorato per le istituzioni? Quanti anni ha lavorato per le istituzioni europee? Quanti anni ho lavorato? Io sono arrivata senza concorso, mandata dal governo, penso che doveva essere 61 o 60, coincide con la data con censimenti del centenario. E poi sono andata via a 65 e avevo allora 40 anni. Sono andata via a 65. Ecco, faccio il calcolo. Sì, qua. Quindi 25 anni. Però in questo periodo abbiamo fatto tanto. tanto, tanto. E un giorno, trovandomi a parlare col dottore Scognamiglio, loro lo conosco, della cassa malattia, mi disse, ma loro mi devono rispondere, è ancora lì stiamo, è vero? Mi disse, dice, signorina Porto, io gli raccontavo grosso modo il lavoro che avevo fatto, ma il lavoro che avevo fatto io, il più importante, era di trasformare le aziende che avevano la colonia per tutte queste forme di modo di fervaluare in affitto o proprietà. Ma a casa ci sono tutti questi, le trasformazioni fatte da me con la legge del... perché sempre io lavoravo con l'articolo, penso che sia 2296 dell'agricoltura, insomma, col codice. Poi è venuta dopo questa indagine pilota che avevamo messo a posto la struttura di un'azienda agraria. Nello stesso tempo c'è stata la RICA, ma che non valeva niente per me. Io sono stata poi trasferita per mettere a posto un po' la RICA dal punto di vista strutture, da Lussemburgo, di nuovo dopo la commissione che a Bruxelles. E a Bruxelles ho lavorato un po' con la RICA, però la RICA è l'immagine di un'azienda e basta. Non è un campione, guai a dire. Lavoravo in questo periodo molto bene con gli inglesi, l'Italia ha sempre lavorato, perché nel 92 penso gli inglesi... 72. Non mi ricordo. 72. 72. Sì. Prima entrò no, ci fu la Grecia, la questione dei colonnelli. Della Grecia, e la Grecia con i colonnelli mettemmo a posto tante cose in Grecia, l'Epiro, tutto giustammo, però a un certo momento ci fu una questione politica, la Grecia abbandonò il progetto Europa e allora noi poi è entrata il bravissimi il come si chiama quello vicino alla Spagna, Portogallo, i portoghesi che erano bravissimi in legge, penso che lo siano ancora oggi, e loro chiesero con chi vuole fare le negoziazioni lei a Portogallo, perché si facevano a settore la RICA, tutti questi settori, dice con la signorina Poto, e io mi trovai a fare la negoziazione per la RICA tutto, con uno stagiaire che poi è diventato ministro dell'agricoltura, si chiamava Michel, io mi ricordo, non mi ricordo, signor, dovete perdonarmi di questo, non c'è perché... problema, va bene anche così. E incominciai, bravissimi, devo dire che con il Portogallo è uno dei paesi dal punto di vista giuridico più preparato, e lo penso che lo siano ancora. E anche la Spagna, sono paesi molto preparati. Ma per dire la verità, tutti, solo che la questione era di origine latino, i paesi latini, Spagna, questione di origine, non è questione se è che possono prima. Poi la Grecia rivenne, dopo i colonnelli, cose, ci fu una battuta d'arresto e mi trovai a lavorare molto bene in Grecia, molto, molto. Andavo spesso e loro mi sono posto tutto l'Epiro, che era, insomma, la Grecia è tutta montagna, quanto rimane di superficie agricola è diventata pochissima. Una volta messa a posto tutte queste strutture, cosa ci rimaneva? Ci rimaneva di orientare l'Europa in maniera tale da poter lavorare e legiferare nel campo materie, per esempio. Allora entrò la Gran Bretagna. Gran Bretagna che fanno l'errore di... sono quattro le regioni, cioè pensano, l'Inghilterra, Galles, l'Inghilterra, quattro regioni, Galles, la Scozia, l'Inghilterra, ma l'Inghilterra sono quattro, la Scozia, l'Inghilterra, e poi gli altri due paesi non me li dico. Entrò la Gran Bretagna dopo nel 92, penso. Aiuto. Nel 92? 72. Sì? 72. Ah, ecco. 92 sono entrati quelli del nord. Il Portogallo sono arrivati dopo. Il Portogallo era bravo. Che c'è nel campo? Bravo. Ma tutti i paesi hanno collaborato bene con noi. Quando io lavoravo e andavo in uno di questi paesi, loro erano felicissimi di accoglierci, felici. Sì, allora... E l'agricoltura, sapete dov'era all'inizio, inizio proprio? Brockville. Lo so. Ah, Brockville. Ho delle colleghe che lavoravano a Brockville, che adesso sono anche pensionate. Ecco. E c'era il museo vicino del Goethe museo e lì lavoravamo noi, non c'era niente. Ricordo il pianto di una povera vecchina a piazza Schumann che non voleva lasciare la sua casa perché dovevano creare quando dovevano creare, e questa povera vecchina piangeva. Sa cosa fecero quelli dell'Europa? La lasciarono con quella casetta vecchia tanto tempo, finché non morì. Non so come fecero a lasciarla, lo sa questo fatto? No, ma una bella questa storia. È la cosa più che mi commosse, sì. Che ebbero pietà di questa donna che non voleva lasciare. Poi abbiamo avuto il Berlimont, eccetera. Però prima del Berlimont ho lavorato, perché fui richiamata di nuovo a Bruxelles, perché si doveva fare, come si chiama quello, come politica, tante bacche, tante... La PAC. Brava. La politica agraria, sì, comunitaria. E io la dovevo fare per l'Italia, ma ci... giorni prima di andare via alla festa che detti, quando andai, disse questo direttore: a lei l'ha rovinata. Perché? Disse, perché lei doveva fare la pacca per l'Italia e no quella, e nonno a Amsterdam. E questo, io non sapevo niente, nessuno mi indirizzava. Facevo il meglio di quello che potevo fare, ma non capivo l'importanza ancora, perché non potevo inquadrarla e tutto, quella piccola parte magari che dovevo fare io. Allora ci fu il catasto del vino, dopo incominciamo, e poi si doveva incominciare col catasto dell'olio, che non fu fatto. Catasto dell'olio non è stato fatto. E poi abbiamo fatto un grande lavoro, la tipologia delle aziende agrarie, la conoscete? Ecco, lì ho lavorato moltissimo io. Cioè, si tenevano presente tutte le culture, prorata le culture, e si vedeva che cosa era la cultura prevalente per dare l'orientamento all'azienda. Poi, prima di andare via, che cosa ho fatto? Si ricorda chi era il commissario all'agricoltura quando è andata via? Pardon? Si ricorda chi era il commissario all'agricoltura quando lei è andata via? Adesso aspetta, mi devo ricordare. Scarasce era andato via già. Natale. Ecco, Natale. Natali. Natali. Natali. Era... Ecco, bravi, mi avete fatto ricordare una cosa. Natali era uno che conosceva Piccini Leopardi. Piccini Natali Leopardi era amico di mio padre. Eh? Natali era amico di mio padre, perché quando io sono entrata nell'85 all'agricoltura, Natali era commissario in quel momento. E la famiglia... Italiano? Sì. Sì, sì, giusto, giusto, giusto. Poi venne... quello di Marina Rovere. Ah, sì. Io ho lavorato con lui, col commissario. Era quello della, di Natali. Ripa di Meana. Ripa di Meana. Io ho lavorato, uno dei miei primi lavori è stato con Ripa di Meana. Io lo conoscevo molto bene. Anch'io ci ho lavorato perché insieme. Perché era il marito di Marina. Di Marina Ripa di Meana. Che aveva... una figlia con due nipotini gemelli. Sì, sì. Ma quando io sono andata via, aspetta, chi c'era come commissario? Ma che anno era, se lo ricorda? Sarà stato 85 anni, io sono del 20. Quindi 85. No, deve essere dopo. Io sono entrata nell'85, c'era Ripa di Meana e Natale. E lei ha detto aspetta, che è entrata nel 61, quindi sono 85-86. Che era... 86. Ecco. Io sono entrata e sono uscita, sono andata in pensione. C'ho la lettera di auguri che si fa, pro forma, come a casa. E diciamo... Allora, io poi ho perduto le connessioni con certo. Piccini Leopardi, con Carla non l'ho mai conosciuta, io conoscevo i genitori, certo. Infatti Maria Clara e Mario... Perché quando è andata in pensione? Nell'84. Ho sbagliato di poco. Mario L'anno Piccini. Prima che entrassi io. Pardon? L'anno prima che entrassi io. Lei è andata in pensione nell'84, io sono entrata nell'85. Nell'85, per 10 anni. Sì, è contato da morire. Sì, sì. Ha ragione. Ha visto? Ha passato il flambeau. Allora, non vogliamo più stancarla perché da molto che stiamo parlando. Ma io non sapevo neppure che c'era Carla. Io Carla l'ho conosciuta perché lavoravamo non nello stesso servizio, ma avevamo a che fare insieme e così quando ci conoscemmo parlammo dei nostri padri. Certo, perché suo padre era ammiraglio e anche il mio papà era ammiraglio. È per questo che io ho conosciuto Carla e avevamo questa cosa in comune. E io di questi Piccini Leopardi, che è una delle più grandi famiglie belle, bellissime, della mia epoca, ma sa... Non esistono più famiglie così belle. Tutti erano ufficiali, ufficiali superiori sono quelli questi. Cioè, no, c'era un danese in quel periodo, Paul Dalsager. Pardon? Non capito niente. Sì. Pare che ci fosse in quegli anni, come commissario all'agricoltura, un danese. Albanese. Danese. Un danese, le risulta? Come si chiamava? Dalsager. Paul Dalsager. No, io ho avuto Andriessen. Quando io sono arrivata in agricoltura nell'85 c'era già Andriessen, che era olandese. Era quello dopo l'andese, che era infatti. Quello dopo. Lei lavora nell'agricoltura. Io sono 31 anni che lavoro in agricoltura. Adesso, ancora. Lei avrà lavorato? In quale settore? Io sono nelle relazioni col Parlamento europeo, però mi ha fatto molto commuovere prima quando ha parlato dell'olio d'oliva, perché io il mio primo lavoro in agricoltura è stato proprio nell'olio d'oliva e mi ricordo benissimo tutto il periodo, la jachère, tutto Carlo Scarascia Mugnozza, che lei ha parlato, tutte le superfici agricole, tutte e queste quello, cose io le ho conosciute sapevo, perché le ho imparate appena sono arrivata in agricoltura. L'agricoltura del sud. Sì. E quando vedevo, ma come? E tutto era alle culture promesse. Sì, sì. C'è stata una grande lotta del pro rata e l'ho vinta. Per il pro rata. Pro rata vuol dire la porzione che spetta ad ogni superficie agricola utilizzata e non miscela, mischiata e si attribuisce tutta ad una cultura il cui valore è superiore dal punto di vista economico. Lei non ha mica conosciuto la signora De Voist? Pardon? La signora De Voist. Chi? Lei non l'ha conosciuta perché lavorava ancora in agricoltura. Lei era Come una... si chiamava? Si chiamava De Voist. Era una signora di origine olandese, no, ma parlava io, molto bene l'italiano. Io forse loro non lo fanno questo fatto. Ho conosciuto molto bene Françoise, francese, che ha sposato un italiano capo divisione, il cui figlio, Philippe, me lo tenevo in braccio io quando lei andava in pensione e quando lei andava in missione. Cioè, e l'ho visto al figlio, il figlio alla televisione. Ho pianto, perché penso che abbia il cancro e non viene più in televisione. E come si chiamava questo conduttore, Philippe Guerre. Insomma, tanti fatti che una vedendo per la televisione ricorda. No, pensavo che avesse conosciuto la signora De Voist perché lei dovrebbe avere più o meno la sua età e lavorava in agricoltura all'olio d'oliva e lei si occupava la della promozione. Che... Negli anni Ottanta, quando lei era lì a fare la PAC, perché facevano la PAC tutte e due, è stata la mia prima collega di promozione dell'olio d'oliva. Una signora molto... E beh, lei si ricorderà allora della tipologia. Sì, certo che mi ricordo, come no. Sono le prime cose che io ho studiato quando sono arrivata in agricoltura. E per fare il prorata. Una lotta tremenda col consiglio dei ministri. Ma infatti queste persone che erano lì quando io sono arrivata, io ero una giovane funzionaria, avevo 23 anni e mezzo quando sono arrivata, mi raccontavano tutte queste... lunghe, sì, tutte queste lunghe lotte, tutte queste lotte, messe in, le lotte più tremende per vincere è stata il prorata. Andavo solo a rappresentare la commissione allora. Al consiglio. Allora al consiglio provinciale dell'agricoltura a Lussemburgo si teneva una volta e io andai, erano tutti con mi lasciarono sola. Però lei è stata molto brava. Molto coraggiosa. Molto coraggiosa, molto brava. Professionalmente, eticamente. Ho messo tutto quello che potevo perché credo nell'Europa. Perché credo che più i popoli si conoscono e si amano, meno guerre ci saranno. Le guerre ci sono perché i popoli sono divisi. I popoli devono essere uniti, tutti, che poi uno ha una fede, un'altra fede. Quelle sono cose che non riguardano noi, ma amarsi, volersi bene, è la cosa più bella della vita. E io l'ho fatto sempre nella mia vita. Ma non facciamo. L'ho fatto sempre.